I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. La rottamazione delle cartelle esattoriali su imposte, ma anche su multe e tasse locali, rischia di trasformarsi in un vero rompicapo. La rottamazione infatti non riguarda in modo automatico tutte le cartelle esattoriali, ma solamente quelle che sono state emesse da Equitalia, anche se riguardano tributi locali e multe. In Italia però ci sono quasi 5.000 comuni che non riscuotono le loro imposte locali e le multe tramite Equitalia. In questi casi la rottamazione si potrà fare solo se il comune approva o ha approvato entro mercoledì un'apposita delibera. Da un primo monitoraggio che ha fatto il Sole 24 Ore sembra che molti grandi comuni sceglieranno di non introdurre la rottamazione, la linea di Bologna, la linea di Torino, Milano, Cagliari. Qui probabilmente non si potranno rottamare le tasse locali e neppure le multe stradali, cosa che sarà invece possibile a Napoli, a Venezia oppure a Siena, perché appunto in queste città la riscossione dei tributi è fatta da Equitalia. A complicare il tutto c'è un'altra variabile: la rottamazione copre gli anni dal 2000 al 2016. Se però un comune si è servito di Equitalia per alcuni anni e per altri no, la possibilità di rottamare la cartella riguarderà solo alcune annualità. Insomma, un gran caos, sia per capire che cosa potrà essere davvero rottamato, sia perché questo sistema creerà enormi disparità tra chi avrà libero accesso allo sconto che si può ottenere facendo la rottamazione e chi invece questo sconto non lo potrà avere. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Alessandro Plateroti. Il silenzio è d'oro, ma evidentemente Donald Trump ancora non è pratico con le regole non solo della politica, ma persino quelle dei mercati. In un momento di incertezza per la riunione della Federal Reserve, per il passo dell'economia mondiale, l'esplosione delle polemiche sui controlli all'immigrazione, l'annuncio di misure restrittive sull'immigrazione, soprattutto da quei paesi considerati a rischio di terrorismo, ha infatti provocato un nuovo innalzamento di tensione anche e soprattutto sui mercati finanziari, dove già la riunione della Federal Reserve, le incertezze sul passo dell'economia e soprattutto dei tassi di interesse avevano creato le condizioni per un ritiro di posta dei mercati, se non una vera e propria correzione che molti auspicano, visto ormai i record brucianti che sono stati messi a segno nelle ultime settimane. A beneficiarne comunque è l'oro, l'oro è il bene rifugio per eccellenza, dopo una partenza d'anno già molto forte, considerato soprattutto il rallentamento di dicembre, quando ancora non si capiva quali sarebbero state le politiche di Trump, beh, si è rimessa a correre, più o meno allo stesso guadagno che presenta l'indice Standard & Poor's dall'inizio dell'anno, ma alle spalle un balzo del 20% nei 12 mesi precedenti. E bene rifugio nei momenti di paura? In parte, sicuramente, però in questa fase proteggere il capitale dai rischi delle evoluzioni della politica e soprattutto dalle incertezze di quelle che saranno le elezioni dell'Europa e degli altri paesi, soprattutto la Cina, alla svolta Trump, beh, questi sono segnali che confermano l'importanza della prudenza. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.